Friuli nel mondo, 245esima trasmissione dedicata agli emigrati. Scrittori della nostra terra, un incontro con Riedo Puppo. Riteniamo, cari emigrati, di appagare con questa trasmissione l'attesa di quanti ci hanno manifestato il desiderio di un secondo incontro con Riedo Puppo. L'arguto scrittore integralmente friulano, il quale, per dirla con Nadia Paoluzzo, sa alimentare il piacere tutto intimo, nel lettore o nell'ascoltatore, di ritrovarci nei personaggi, integri, antichi, umili e alti come quelli che egli ci presenta, con tanta schiettezza e umanità, scoprendoci le presenze scomparse di una vita patriarcale, sana, ormai lontana. Episodi e figure che ci sorprendono e ci elettrizzano, trasferendoci in un qualsiasi paese del nostro Friuli a riprendere e a vivere insieme le cose più genuine, più vere. Guardatelo, sentitelo, scrutatelo quest'uomo, Quilin, che Puppo ci presenta in questo umanissimo racconto. Il Crist di Quilin. De chiuie, la strada e va a plomb, qui in tricolore, e quasi non si viodile, tal miez dai cocolars e de sacazis, e enfri li smurais altis dai rongs. Sul vol alle un Crist, e lì, donde dal Crist, e iere la chiase di Quilin, un chiasal cul poch tal mies dal curtil, i chiozzi in rie d'ogne dall'edan, e il pedrat di clapons grand, fruiats par zore vie, de tante aghe de strezearis. Altri schiasis non dere li a tor, li splui d'ogne, appene appene si viodevilis de bande dal cischiel, o sodvie de culine dai tre roi. Ma Quilin non gli ere content dal puest, al diseve simpri che salveve timpa vivi, alveve di fassune chiase gnove, plui lontan, donde il bos di Lauzane, parce che lì e iere masse disturbade. Va di par vie deserogazion salacor al diseve. Vie peanade non passave di che bande nanche un chian, ma il dì di San Marc, quand che si fermave lì la prima erogazion, la croserute dal Crist si iemplave di int, e i frutz de Nant arrivavi infin a red de l'obie, e intant che il plevan al benedive la campagne e all'alzave il Crist dos tre voltis dome quintrimo dot, parce che parlà aven simpri la tampieste, i frutz si rimpinavin sulla spizze dal tamon che jessive pe balconete dall'arie e auciavin il chian calluagnave come un lof. Quilin, urvaresti rad di cur un esclopetade, se non fostat par rispied dai due Crist, il so grand, che il de Crosere, e il picciul, quel che il plevan al portave a tor par benedì i chiams e li stradelis. E quand che l'iserogazions a tornavin a movisi, Quilin si consolave e al chialave a lung la inta slontanasi, quintri bor piorar e po asparì chiantand li slitanis gli enfri li sacazis di Calisto. E il chian, un poco alla volta, al fermave di guagnà, e biel plank, al tornave agli entrata al cusso. Allora Quilin agli essive, e all'ave a ispezionare il Crist, se la inta avevin dissipati il siaraud di palez, a tor, se avevin strucchiati il vasud des rosis. L'uveve fat lui che il Crist, Quilin, di leng stagionat, sunt une cros di ciamar, e po murat lì sul volt d'un clapon plui grande un fogolar. E sotvie al tignive svangiato un stroput pes rosis, e a red dai pis dal Crist sul clap alveve metut un bossul di granate, simpri cunt une rose dentri e cunt une rame di vert. Quilin non lave inglesie, parvie che lui al voleve veda fa cul paron, no cui fators al diseve. E il paron, il Crist, lui l'uveve lì, fur de puarte de chiase. Cusì, al trattave direttamente con lui, a tu par tu. ma il tignive qui la contabilità. Da e vedi ve. Un erose al Crist e tantis blestemis perdonatis. Un gloria patri e tantis fiestis di poder lavorà. Un inchin e tantis chiocchis smenteadis. E da urla so contabilità, al fon galantom. Non fase male a nessun. Just el plevan al chiatacce di, par vie che quilin applicanti il suo criteri contabil, al crode sempre di poter sparagnare il quartes con tun salud di chiapiella al Crist. Il plevan però, non stentai stes no, e quilin, con tutte la so culumie e il suo tigni cont, non riva a fa la chiase gnove. Al continua sempre domme a porta d'onge clas, fin cagliere vecchion, e uno spin dinanti un carantan. All'ave a tosasi sul vecchio di lune, perché noi crescessi in i chiavei. Dopo cene, ribatinave anche i plaz, per non spindi, e al vendeve falchiarse tamons. Iusel geve tal bosc, di picciui, ioi e i mulex, che avevin la sagume giuste, e ius pietave che crescessin, e aveve la schiale dal toglat, sempre plene di mani sinforme. Si immalà una volta sole, giuste par morì, e tagliet al faseve museuz di fil di fiarpa i vidiei. Quand calfota i ultings, il plevan al domandà di viodilu, e le donge, plan planchin, in ponte di pi. Quilin alzava riave, ma quand calvigni a sé e al cognose il predi, non lo para vie, e nanche non lo clama il fator. Al tira su, tant cal podeve la manone sclapade di crituris, e i disette un'eurele, di sintile apene, che vosone che una volta atrimave. Sior plevan, che i puarti un'erose al Crist, o hai sbagliati conz, o hai lassade fur une giornade di blestemis. Il plevan al moladut, al chiapasù un macet di rosis, di corse, e li spartato al bosul di granate sotto i pis dal Crist sul clap. Po al torna sotto un salt e al chiataquilin che si segnave e arrivà giuste giuste a benedilo. Nel mondo dei vecchi si sofferma preferibilmente il nostro autore ed allora eccolo qui con questi ritratti di una vivacità straordinaria. Beati viei, chei che non sance che ie la tape a cronometro e di tutti gli speraulis tecnicis di Zuc a cognosi in nome fuori il mi chiamo, chei che sapevi in spume non la tegni innanti tal stomi. Lo veso cognosuto, Iacum Dos, cal fu clamata rispindia di un'eccitazione a 85 anni par via di un debit di 15 francs. Il giudice conciliator impone di parai il debit. E Iacum, o pai, sì, signor giudice, o pai, se il signor mi dà la grazia di chiata lavor, o pai, sì. Quand calmurì, al clamà il plevan e al fase test de sos mans. Signor plevan, o vares voi di lasacci in 100 francs per iglesie e 1000 pal benefici. Bravo, Iacum, bravo, aspese al plevan, un galantom di vif e un galantom in muart. E indulà saresino che sbeez. Alle che il copensi anche io, monsieur plevan, risponde Iacum. Une carogne di vif e une carogne di muart, aggiunta il plevan. Ma in che volte carogne? Al voleve di ninin, agli era tutto un altro mondo. Int buine e di cur. L'unic vizi, agli era che non usavin a patisset, che anzi doi amions di brezza une volte, doi di che distudavin la sedda spes. All'erin a confessarsi a feagne, parvie che là, in quei timps, all'era un predi calpative tante di che seta anche lui, e dunque all'era un'evore adatta a capiu. Ben, si spettaresi o altris une domande di che ste fate. C'è vin beveso. Sor plevan, o hai il vizi di bevi, ma o bev un'evore, ad utili soris, ed utili tim d'alan. E c'è vin beveso, disse il plevan. C'è Welial. Disse il princaliere Beppo, robe di chiase fin candepo e dopo tai cantinons, ve, Clinton, Merecan, Nostran, anche Baccossi or baste calzedi neri. C'è brudvizi coves. Non saveso che il vin al pare lompa fil di bestie. Ben ben ben, a Romai c'è caleale. E parpinitinze, o disares vinci rosaris. In che volte gli spinitinzis aiarin un po' chialciadutis. Il pecciador al cede il confessionario al suo compagno. Ma quando che si scambiarin il puest, Beppo non può de fa di manco il divisal a mi, calveve non tin. Dipo tin, viot che io col bacò e merecan, o ai vinti rosari su peschene. Tu, che tu tetis butiglis, ti incapite un stialar. Tin, non capi ben, li parli, e all'essot. Anche lui alveve nome un peciar. Ah, signor Plevan, o bev sempre, e non soi mai plen. E c'è vin beveso, disse il Plevan. Oh, signor Plevan, sulla mesteme si può dare scrivi un evore e bon. Io ho tutti butilis di rosazis, di faelis. A chi ret si visa desperaulis dal suo ami, al capì di colp, al ferma di bot, al sbasalchiaf e al spietà la sglavinade di rosaris. Il confessor, al sclarì la voce, po al sentenzia. Cula verità, si laude Dio, savese c'è quau di Dius. Quel di rosazis me pete anche a mi. Po ben, al continua il Plevan, ci ri di no passa la misure. Sì, insomma, ci rin di limitasi. E parpinitinze o desiarin tre gloria patris. La conclusione fu che tin aiuta Beppo a di rosaris, Beppo al cambia qualità di vin. Momenti vissuti da molti dei nostri contadini durante l'ultimo conflitto mondiale affiorano in alcuni passi del racconto. La bolette dal forment. Noi c'è d'ore di finire con che i martueri scà, o hanno voi di schiafoianus, al sarà miezore nanche, o i domi di schiaria, o vignivi a chiase col chiar dai sacs che sono stati abbati, strac, sudat, sporc, voi di spese a par distrigami fur de sbalis, ponocchiati o li de ciuculi e doi di lor, a c'è ustus savveos, o hai savut dopo io, al, mi dici in culi svacis, cramenti, o credevi che mi fosse colato qualche sac, o fermi a vignin donge, e un mi trabassi su par napoletano, ma cui lo capì venie, io o chialavi da ur, o i sacs, o gli ubal che al fos disleate l'at par traviars. Avete capito? Mi disse l'altri, e mi domande la bolette. Il controllo. Boletis a mi? A mi non mi coventi in boletis. Io non dai di consegnare la masso. Sustu confasi con tu inchiamputi tre quarts quai vu. Cula blave non soi mai arrivat, che anzi tale un mese subit coviv cum pan di tessere. Io non mi salvi mai più col mio forment. Non rivi fin sul chiappasù. E da ur di quel che si capis, la bolette serva res par chiolman son dai di plui. Ma se mi manche, meni, provioditi. Ah no, capiso, nus velin ben dome sul chiappasù. Sui grandi lavors, nus chiolin pal culo e nus ridin par da ur. E la siarade avvenin in precision a ciri. Io gli hai fatto il calcol che, oh, non mi bastin doi, tre quintai di gener par contentaio duci. Tac e cul cortes. Il capitolo, regali e almuini, qualche commissione cande sempre o pai sinistrati o pai sfolati o pai profugus e l'osti somari, e poi ven le regali del guardian, che dal capelan, il frari di Madonna di Grazie, che il di Glemone, sagris, lavors, caritazze e qualche alcaltri di fora fora, po di semi di là che sia di là a parasi, e poi cercandosi sulla parte, e il guviar con gli stasis, i arretrazzi in prest. No par quartai contadins, ma io mi visi che quanche i purciz a ieri a 12 francs l'un e i vidiei a 1,80 al chilo e i usa 15 centesis e vendiu parchioli sardelon e li sfameis dai contadins a ieri in plenis di debits, di frutti e di miserie, non han fatte nessuna commissione in che volte pariudaiu e han scugnut strusiasi di besoi e chei che non han potuto far fronte ai debits e agli disgrazis e han scugnut mangiasu tut. Isevere non isevere. A son i studiati che la mesedin, che vios tu con che squeli saboliche che ti han vuoi. Io la sbaglierai, ma par gno cont che han fatto i detiarce a son duci criminai. E se non son, a deventin. Ma, fevelin clar, par c'è studino, par no lavorà. Coventare si no t'han studiats, ma c'è util dano, c'è produsino. Culi lor schiacaris, culi lor schiartis, fasino vigni blave, forment, ue. Lor t'inventin ogni spirta boli. Ma resonin un poco se ogni dunga stessa e chiase so a lavorà come che si dice, tan miorno si la resia. Bastares lavorà, mi è stante. E invece, ma c'è ustu, su ogni dun di no cal lavore, ande siet che ti notin, ti disnotin, che scrivin e che scancelin. E che quei chiatazio pa strade, a son di che? Perché il mio vignuccio il convulsami? A studin, dome che di no lavorà e di fa la guerra. Non si vi odia. Tutti gli invenzioni sa son par che il cont. A disin lor che ti inventi macchinis di ogni fate, guanos, gnus, comoditas. Se fos vere, par con di macchinis ci hanno fatte. Andan fate une par fa su e non han tenuf par disfa. A poi di invergognarsi che è ore. Se aveso c'è così, io, distruggi tutti gli macchinis, purché che dal solfato. Ilie, parte che mi slitro e che si sbombi tutto. Che segno pari mi ves fat là in denan culi squelis me. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.